stato dal... Allora, in onda con un compagno di Taranto, pronto, ci senti? È un po' lontano, ma ti sento. Benissimo, allora mi senti meglio adesso? Un pochettino meglio ti sento, sì. D'accordo, allora brevemente cosa sta succedendo giù dopo questi licenziamenti? La questione è questa, Marco ovviamente è stato licenziato perché il sistema ILVA, come tutti i sistemi dei poteri forti nei territori, sappiamo insomma, no? Quale sia il loro modo, come dire, di agire. Ovviamente la solidarietà, fra virgolette, è scontata, nel senso che non sarà ovviamente lasciato solo. Certo, l'area che tira in fabbrica, per tutta una serie di condizioni che ognuno di voi può tranquillamente capire, non è facilissima, tenete presente questo elemento su cui andrebbe anche ragionato, però questo è, diciamo, un discorso che dovremmo affrontare al momento giusto e nella situazione giusta. Intanto però quello che è importante, io mi rifaccio sempre un po' quello che dicevano i Ciapaniti, quando tu ricordi, Giorgio, insomma, quel periodo, un po' di compagni cercavano di andare e partire per andare in Chiapas, chiedendo noi che cosa possiamo fare, no? Per il Chiapas e per la lotta dei Ciapaniti. Loro giustamente dicevano: e invece di venire qua, combattete il liberismo e il capitalismo nel vostro paese, no? Sì. E creare più fronti evidentemente li indebolisce, no? Questo, come dire, politicamente la posizione è correttissima, ecco. E diciamo che adesso in questa città sta un po', ovviamente, con i dovuti rapporti, sta accadendo la stessa cosa, nel senso che, giusto per farti un esempio, da ieri il Comitato Cittadini Lavoratori Liberi e Pensanti è in presidio auto-organizzato sotto al comune per tutto quello che è accaduto, per tutto quello che non hanno detto. Non so se sapete per esempio che il governo Letta ha fatto il terzo decreto salva Ilva, ovvero hanno dato l'autorizzazione all'Ilva di allargare il Mater Grazie, che è la discarica interna all'Ilva, dove ci va a finire, guardate, di tutto e di più, ne sospettiamo soprattutto il molto di più da questo punto di vista. E la follia di questo elemento qual è? Che non più di qualche mese fa, come a tutti noto, è stato arrestato il presidente della provincia e un assessore provinciale all'ambiente esattamente per quella Mater Grazie, ovvero quello che si sostiene che in una forma di corruttela, voglio dire, il presidente della provincia e questo assessore hanno dato il via libera a questo Mater Grazie. Certo. Allora delle due l'una, no? Cioè, adesso andiamo a fare pure la protesta sotto la casa, perché sono ancora i domiciliari di questi qua, per farli uscire, perché in fondo sono innocenti se il governo gli permette all'Ilva, come dire, di allargare la Mater Grazie. Ora, al di là dell'ironia sulla situazione, il quadro nel quale ci muoviamo è questo, e quindi il comitato, come dire, torna, veramente non è mai stato fermo, come dire, nella pressione verso la politica, come dire, sotto questo punto di vista, che ovviamente su tutte queste vicende non ha detto niente, ma sono decenni oramai che i sindaci in questa città, di qualunque formazione fossero, centrodestra, centrosinistra, è quello che vi strapare, questo che abbiamo adesso per esempio è del SEL, non hanno mai detto una parola, sono stati zitti durante tutte le iniziative. Ti aggiungo per esempio che è un'altra delle battaglie che abbiamo portato, sai, quelle battaglie territoriali che però sono giuste da portare perché la concretezza della vita delle persone. L'anno scorso su una scuola elementare e media, si chiama Veredda, a Rione Tamburi, a 100 metri dei parchi minerali, immagina, Giorgio, lascia immaginare a tutti le compagne all'ascolto cosa significa stare a 100 metri dei parchi minerali non coperti, cioè quella che ti manda al cimitero, perché c'è tutto l'inimmaginabile da un punto di vista di pericolosità ambientale. Non solo, abbiamo scoperto, come dire, che sotto quella scuola, vi spiegherò anche come l'abbiamo scoperto, si sapeva, come dire, no? Sotto quella scuola corrono i grossi corsi che prendono l'acqua dal Mar Piccolo, qui da Taranto c'è stato Giorgio, no? Prendono l'acqua dal Mar Piccolo pulita per raffreddare, insomma, i propri impianti, potete immaginare come ritornano nel Mar Piccolo. Bene, come ce ne siamo accorti? Meglio, come se ne accorta piuttosto la cittadinanza, che in punto questi condotti sono stati inevitabile, addirittura ci finì dentro il cane, che meno male che non stava camminando, perché era nell'area mercatale, era posto lì, sprofondò e finì dentro. E come sempre, ma non ne sappiamo niente. Salvatore, scusa se ti scusa se ti interrompo. Sul territorio passano quel, cioè, guardate, noi abbiamo assistito delle cose. Francamente, scusate se mi veniva da ridere, ma cioè, in alcuni momenti forse non c'è null'altro più da fare, perché andrebbero preso a pedate nel culo, perché questa è la verità. Allora, su questo noi stiamo dicendo basta, siamo su due elementi forti, no? Quindi su due elementi forti stiamo intanto iniziando questo presidio come comitato, e che sono: uno, la questione, insomma, di bloccare l'allargamento della Mater Grazie, e quindi, insomma, il rifiuto e la revoca del decreto di allargamento della Mater Grazie, e l'altro, la RSE. Noi, siccome stiamo dicendo, fare le bonifiche adesso con gli impianti che continuano a produrre a rotta di collo, altro che AIDA e polli e stupidaggini di questo genere, quelli stanno producendo alla grande e quindi stanno continuando a inquinare alla grande, le bonifiche non hanno senso le bonifiche, se tu hai gli impianti inquinanti ancora in pieno regime, e non è solo lì tra i veni, la Cementir e quanti altri, è per capirsi. Quindi chiediamo, come ritorno economico, se i soldi devono arrivare in questo territorio, Taranto l'avete definita voi col decreto salva IVA una città a rischio sanitario. Bene, noi stiamo facendo una campagna che si chiama che chiede, certo, da parte di un numero forte, soprattutto potrebbe scompaginare tutto quello che accade inoltre nella sanità, che i cittadini di Taranto, i lavoratori che operano in, diciamo, all'interno di questa, diciamo, abbiano diritto a un'esenzione ticket totale, che vengano abbattute le liste di attesa, ma per i sani, perché è chiaro che chi purtroppo è già malato di tumore, come dire, l'esenzione ticket ce l'ha. Noi le chiediamo per i sani, come forma di prevenzione. Cosa vuol dire questo? Siccome noi sappiamo che se salvare dei soldi vanno verso le bonifiche, non mi meraviglierebbe se per esempio qualche azienda che farà la bonifica sarà magari anche qualche, come dire, prestanome di Riva, per esempio, perché non lo sappiamo, il giorno ti ammazzo e la notte ti vorrebbero curare, no? Sì, la sanità sì, è un certo. Po' così. Quindi voglio dire che questi soldi vengono spesi in questa direzione, anche con assunzioni, con metri che chiamiamo i medici sentinella, noi abbiamo mandato anche un po' in giro questo documento. Allora, su queste cose iniziando questo presidio. Aggiungo, giusto per capire, che in questo momento Taranto è una città in movimento, e che quindi per riprendersi il diritto alla salute, il diritto al lavoro, il diritto a un ambiente sano, il diritto a un reddito, come Confederazione Coop, in questo momento sono sotto il comune anch'io, quindi, come dire, viaggiano insieme in questo momento queste lotte in IVA, e qui sotto al comune del comitato e della Confederazione Coop, perché sono lavoratori che il 13 perderanno il posto. Ecco, quanti sono, grosso modo? Sono lavoratori di una cooperativa di ex detenuti. Avevamo già raggiunto un accordo con il sindaco per la prosecuzione lavorativa, lui l'aveva anche annunciata in gran pompa magna in TV, però siccome lo conosciamo adesso è scomparso, quindi stiamo chiedendo conto. È possibile che scompariamo un blocco, perché ovviamente essendo scomparso lo faremo riapparire, diciamo, ecco, questa è la realtà di Taranto. E credo che, tornando a quello che diceva Vinicio Panetti, discorso è, appunto, se noi teniamo tutti questi focolai di lotta sul territorio e poi lo unifichiamo in quella che noi, così forse con un po' di modestia, però credo anche con lungimiranza, stiamo andando verso l'esperienza Taranto, no? Appunto, che quei quattro punti su cui nasce il comitato, quelli che ho detto prima, ambiente, reddito, lavoro, cultura, con tutto, nel senso migliore, voglio ricordare Taranto capitale della Magna Grecia, eccetera. E da questo punto di vista, come dire, rompiamo il meccanismo di ricatto. Salvatore, dovresti fermarti, perché ti sento a volte va via l'audio. Lo so, perché qui c'è vento. Ho capito. Qui siamo praticamente vicino al mare, c'è vento. Quindi chiudo qui, vi do un abbraccio, ci sentiamo, anche perché tra un po' stiamo per partire col ecco, blocco. Magari ci risentiamo in serata, così per vedere gli sviluppi di queste vostre azioni. Sì, anche perché sulla questione della delega oggi ci sarà le famiglie. faranno una conferenza stampa e andrà al comitato. Va bene? D'accordo. Allora, risentirci, okay. E buon proseguimento. Ciao, ti ringrazio Giorgio. Ciao, buon proseguimento a voi. Ciao.